Salve a tutti, la puntata numero 8 del Il Popolo di Barabba. Sono qui a Radio Big World insieme a Giorgio a registrare quello che vi voglio raccontare. Sono andata a Salerno, ho fatto una gita di un, a Pompei per dire la verità, una gita di un giorno, due giorni, e devo dire che è stata illuminante, a parte le bellezze di Pompei eccetera, però ho avuto anche un incontro ravvicinato proprio con il popolo, con quello che io chiamo il popolo di Barabba. Sicuramente non dico niente di nuovo, tutti voi avrete notato quello che ora sto per dirvi, però credetemi, stavolta mi ha colpito più del solito. Dunque, a un certo punto siamo andati a mangiare io e mio marito in un piccolo ristorantino del centro storico di Salerno, e mentre aspettavamo accanto a noi c'erano due famiglie, due babbi, due mamme e un ragazzino per uno. La ragazzina avrà avuto 11 anni, non di più. Allora, questi sono entrati e i bambini avevano il tablet in mano, quindi per praticamente tutto il nostro pranzo, sarà durato un'oretta e mezzo tra una cosa e un'altra, questi bambini hanno avuto il tablet in mano. Non hanno alzato gli occhi dal tablet se non per mangiare degli spaghetti che sicuramente sono stati ordinati per loro, perché non sono abituati a mangiare tutto, spaghetti all'olio o comunque non so che cosa c'era sopra, niente. Hanno mangiato due fili di spaghetti mentre continuavano a guardare il tablet, hanno smesso di mangiare e hanno continuato nel loro isolamento. I genitori nel frattempo chiacchieravano tra sé, ridevano, un piacevole convivio, ecco, sembrava. A un certo punto una mamma inforca un po' di verdura e imbocca il ragazzino di 11 anni, mentre lui continuava imperterrito con il suo tablet. Guardate che questo è veramente terrificante, perché si vedeva nei gesti e negli occhi di questi bambini, negli occhi, insomma, nell'atteggiamento, che quei bambini non potevano fare a meno di giocare, di essere lì insieme a quell'apparecchio, in questo caso infernale. E i genitori non se ne sono accorti, non se ne accorgevano, anzi, era una cosa meravigliosa, perché loro stavano tranquilli senza che i bambini facessero capricci, eccetera. E poi è un punto di orgoglio, perché i bambini sanno usare quegli strumenti tecnologici, erano genitori anche giovani, voglio dire, quindi questo per me è stata una cosa davvero terrificante. E siccome ne vedo diversi, ora proprio nello specifico come loro, che addirittura hanno saltato il pranzo concentrandosi su quello che stavano facendo, veramente questo secondo me ha superato davvero ogni limite. E mi chiedo, ma questi bambini così accaniti rispetto a queste strumentazioni, a questi giochi, che giovanotti potranno mai essere? Che adulti potranno mai essere? E mi è apparso davanti il popolo, non certo di Barabba, ma quel popolo che mi fa tanta compassione, quel popolo che non vive, quel popolo che subisce, quel popolo che è dipendente da un gioco sempre più incalzante. Mi ha fatto veramente molto dispiacere questo, ed è un punto di riflessione che voglio lanciare anche a voi. Mi veniva la voglia di intromettermi in quella cosa, non so nemmeno io come chiamarla, ma insomma il buon senso mi ha detto di no, anche perché non avrei ricevuto assolutamente consensi. Però ecco, è veramente brutto vedere dei bambini di 11 anni già persi e senza altri stimoli se non quello di giocare insieme a questi, che poi non giocavano tra di sé ma erano completamente isolati, cioè ognuno giocava per conto suo. Questo è davvero davvero davvero terrificante, quindi lancio anche a voi questa riflessione, e speriamo che ce ne siano meno, ma insomma su questo purtroppo dubito. Io chiudo qui, vi saluto, alla prossima, al prossimo incontro. Grazie.